Torniamo in voce ai microfoni di Radio Onda Rossa. All'altro capo abbiamo un compagno dei Cobas per parlare appunto dell'appuntamento di oggi pomeriggio che già in rassegna stampa vi abbiamo anticipato. Pronto, ci senti? Sì, pronto, sono qua, sono Piero. Ciao Piero, buongiorno. E stavamo appunto, abbiamo parlato ampiamente ovviamente nella rassegna stampa di questa visita di Obama, di cosa c'è sul piatto, insomma, dagli armamenti al MUOS, al partenariato transatlantico sul commercio, che voi ricordate nell'indizione di oggi, ma se vuoi insomma ricordare l'appuntamento, ma anche argomentare che cosa significa e perché oggi essere a questa manifestazione. Dunque, l'appuntamento è alle 16 ed è, diciamo, nelle vicinanze di Piazza Barberini, ma molto vicino all'ambasciata. Saremo a meno di 100 metri dall'ambasciata, quindi ci incontriamo direttamente là alle 16. E le ragioni le un po' elencate te di questa manifestazione. Io, proprio siccome ho sentito la rassegna stampa stamattina su Rai 3, eccetera, mi preme di sottolineare soprattutto questa prima uscita che il movimento fa, non solo i Cobas, nei confronto del TIP o TTIP, come in inglese viene chiamato, ossia questo trattato che sta procedendo a passi velocissimi e lascerà, diciamo, i paesi occidentali, sia quelli degli Stati Uniti sia quelli europei, alla completa mercé del mercato. Il mercato sta per dire poi la finanza capitalistica, quella più scatenata e più privilegiata. Ma si possono fare mille esempi di questo trattato, in che modo inciderà nelle vite dei cittadini dei paesi che ne saranno oggetto. L'esempio che viene più facile da fare è i contratti di lavoro, per esempio. Se è un'impresa statunitense viene qui a realizzare dei lavori pubblico privato e può benissimo rivendicare di non applicare i contratti di lavoro di quel paese, perché quello è un ostacolo alla libera intrapresa delle imprese. Quindi basta con questi lacci e lacciuoli, non se ne parla proprio. Il trattamento sarà un nuovo avvicinamento alla schiavitù, proprio senza più regole. Ma questo vale per la sanità, vale per tutta anche quegli aspetti personali, e che noi europei siamo convinti che perché l'abbiamo inventato noi, che certe cose siano dei diritti e che devono essere sottratti al mercato. Loro invece ci imporranno di questo trattato, imporrà di fare oggetto di mercato la salute, la vita, l'urbanistica, il suolo, tutto quello che adesso viene regolamentato, perché la priorità è l'esercizio dei diritti, l'esercizio della vita, no, delle persone, che viene invece assoggettato al mercato, quindi deregolamentato ulteriormente rispetto già alla deregolamentazione vigente. E di queste cose non se ne sa niente, ma non è un caso che non se ne sappia niente, perché tutta questa trattativa in corso è assolutamente clandestina, non si deve conoscere, non si conoscono bene gli appuntamenti nemmeno quando vengono tenuti, non escono documenti, è soltanto per qualche contraddizione interna che si riesce a mettere mano su qualche frammento di documento, a capire il senso di tutta l'operazione. Per cui è importantissima questa uscita, anche per porre, diciamo, ai cittadini e ai lavoratori tutti l'attenzione su una cosa che rischia invece di trovarci con un'Europa consenziente all'ulteriore sottomissione agli Stati Uniti. Quindi Questo credo che la ragione, una delle ragioni principali, poi c'è la ragione, però io non sarei nemmeno di dire che mi viene proprio una categoria mentale a cui di solito mi rifiuto, il tradimento di Obama. Quanti di noi hanno sperato in un cambiamento, il progetto di riforma sanitaria che aveva costituito uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale, è lì che giace assolutamente minimizzato e non si riesce negli Stati Uniti nemmeno a far concepire come un diritto alla salute, per cui il diritto non esiste, è sostituito dal diritto dei capitalisti, delle imprese farmaceutiche, delle imprese ospedaliere a realizzare profitto e rendita anche sulla salute dei cittadini. Sì, quindi tra l'altro sono, su questa cosa insomma del trattato e del fatto che non se ne sa niente e non se ne parla nemmeno, tant'è vero che stamattina sui giornali vedevamo che questa cosa del trattato è molto marginale, gli articoli ovviamente sono pieni di articoli che riguardano la venuta di Obama e argomenti vari, si parla per esempio anche se prendiamo per esempio il Manifesto, insomma giornali più vicini, si parla molto più della questione degli F-35 e quindi della visita di Obama che viene qua anche per spingere insomma i paesi europei a non retrocedere negli acquisti degli F-35. Su altri giornali si parla proprio di tutt'altro, cioè il Corriere ha una intervista di due pagine di Obama, parla lungamente dei rapporti tra il Papa e Obama, parla anche del trattato ma molto meno, Repubblica proprio non ne parla, quindi insomma e questo fa parte del mosaico del silenzio, no, della consegna del silenzio a non parlare di questo. Addirittura ho sentito la segna stampa stamattina che molti parlavano del fatto di una leggenda, che è proprio un distrattore, quella di Obama che verrebbe a venderci il petrolio americano derivato, il gas americano derivato da processi di frantumazione delle rocce. È un'assurdità, è proprio una cosa in malafede, perché prima che raggiunga l'autonomia energetica attraverso questa devastante procedura, che non ci arriverà mai, però casomai se ci arriva sarà nel 2060. Quindi è un argomento che si vuole portare per distrarre e non dover parlare di questo trattato, che invece è incombente perché si stanno accelerando i tempi, perché che il formato ci racconta che l'esigenza è di arrivare presto almeno a imporre una cornice del trattato per affrontare il rischio di un Parlamento europeo che sia contrario all'Europa, che sia contrario o comunque diversamente la pensi sull'Europa e diversamente la pensi sull'euro, diversamente la pensi sul debito pubblico, e che quindi il trattato incontrerebbe molto difficoltà. Quindi preferiscono loro mettere le basi, le radici, quelle contro le quali poi sarà molto difficile opporsi. Vale la pena invece di incominciare subito ad opporsi, per chi viene alla manifestazione tenere presente che un argomento importante e proprio di prospettiva e strategico per la cittadinanza e i popoli è proprio il respingimento di queste procedure, di questo trattato che sta andando avanti appunto in maniera sommersa, come pure tu documentavi, il fatto che la stampa ne parli così poco o addirittura per niente, insomma, quindi sì. E poi, insomma, è importante che la gente lo sappia. Al presidio di oggi una presenza anche dei comitati no muos, perché appunto un altro dei punti è questo, insomma, contro le servitù militari e contro la militarizzazione della Sicilia. Abbiamo insomma ricordate anche nell'appello giustamente insomma il caso di detenzione di prigionieri politici, si parla di Leonard Peltier e di Mumia Boujamal, che insomma altri argomenti molto rilevanti insomma da portare in piazza. Certo, è un quadro complesso non è sicuramente riducibile al solo trattato. Il trattato sicuramente ha una funzione in questo momento particolarmente importante, ma non usa la stessa cosa, è diciamo ancora una manifestazione che se ne dica dell'imperialismo americano, no? Che asservisce le popolazioni, le costringe a subire anche impianti che sono deleteri per la salute, e che appunto fortunatamente ci sono nel nostro paese, no, singoli spezzoni di movimento che riescono a resistere e a mettere all'ordine del giorno la lotta per queste cose qua. Io credo che dovremmo continuare a farlo, e questo sarà un'occasione intanto già per tessere un tessuto tra le varie forme di lotta, tra i vari obiettivi che si vanno emergendo in tutto il paese, insomma, per questo. Senti, noi ti ringraziamo per questo intervento e ricordiamo, insomma, oggi in piazza vicino all'ambasciata americana, via Veneto, cioè piazza Barberini, via Veneto, dalle 16. Piazza Barberini e via Veneto ci sono 200 metri, a metà staremo noi vicino a via Sant'Isidoro. Quindi noi saremo già in vista dell'ambasciata americana. Già questo è stato un bel risultato del movimento, perché in un primo momento la questura non voleva proprio che arrivassimo in vista dell'ambasciata, usando il pretesto che comunque Obama, o dovunque stesse in quel momento, doveva avere il via libera per ritornare all'ambasciata. E io credo che in parte abbiamo... così proprio confermando il nostro atteggiamento deciso, no, ottenuto che invece fosse autorizzato, fosse spostato, saremo in vista dell'ambasciata già. Vedremo il palazzo dell'ambasciata da dove incominceranno gli schieramenti di polizia. Non rinunciamo, non faremo un passo indietro. Benissimo, ti ringraziamo ancora. Allora, ci vediamo oggi a tutti gli ascoltatori. Ciao. Bene, ciao.